siamo alla seconda edizione di un progetto che facciamo con l'Istituto Aldini in questo caso, ma già da quest'anno proponiamo un catalogo che può proporsi anche a tutte le altre scuole superiori. Il progetto si chiama Bring the Change. Il sottotitolo è significativo perché stimoli al pensiero critico attraverso il cinema audiovisivo, cioè attraverso la cultura cinematografica, la proposizione cinematografica, in questo caso specifico il documentario, perché il documentario è un cinema di realtà. Cerchiamo anche di veicolare particolari messaggi che puntano all'idea appunto di solidarietà, di integrazione, di acquisizione, di lotta alle discriminazioni. Ovviamente non ci si limita soltanto a un progetto che è di proposta visiva, ma di coinvolgimento reale di studenti. L'anno scorso in un progetto dell'anno zero, diciamo, ne avevamo coinvolti 20, quest'anno passiamo a 70 studenti, 3 classi delle quarti superiori degli Aldini Valeriani, 2 della sezione comunicazione, marketing e 1 della sezione meccanica, che saranno coinvolti anche attraverso l'uso del mezzo della videocamera, della tecnica audiovisiva, saranno coinvolti pienamente in un percorso che li porterà anche dentro l'edizione Biografilm 10 giugno 20 giugno del 2022 di quest'anno, perché ci sarà una Young Jury in cui loro saranno coinvolti appunto, e c'è un percorso anche che li porterà ad una piccola produzione di clip che saranno poi portati dentro proprio l'edizione Biografilm. Siamo in una sala dell'Istituto Aldini Valeriani. Per me è stato un piacevole sbaglio quello che ho fatto qua, colpa del mio scarso senso dell'orientamento. Ho sbagliato perché sono capitato nell'istituto nella parte professionale. I ricordi ovviamente hanno portato un grande batticuore, perché io sono compagno di questi ragazzi, anche se con qualche cappello bianco in più. Vengo dal Fioravanti, lo stesso istituto di orientamento professionale. Perché dico un piacevole sbaglio? Perché io ho trovato dei ragazzi che mi fanno tremare la voce, praticamente si sono precipitati per aiutarmi a trovare la strada giusta e sono stati con me fino al... non credo che fosse per tardare la lezione, ma semplicemente perché sono speciali, mi viene da dire, insomma... Potremmo dire brividi, brividi, per chiamare Sanremo. Un pochettino, oddio, adesso io non l'ho visto, però sì, il riferimento... Questi ragazzi come si approcciano a tutto ciò? No, si approcciano con grande entusiasmo e grande passione. Già l'anno scorso l'abbiamo visto, questo è un progetto che svolgiamo insieme a tanti altri partner, SMK, Videomaker, con il Festival Terra di Tutti, perché poi dopo c'è un appendice in ottobre del Festival Terra di Tutti che porterà qui anche alla visione del film che avrà vinto al Biografilm, L'Arca di Noè, perché all'interno di questo percorso che descrivevo saranno introdotte 4-5 ragazzi o ragazze che portatori di disabilità e saranno inseriti dentro, e quindi sarà anche un modo anche di scambio e di convivenza con ragazzi, non, come si dice, normodotati in questo percorso, verranno coinvolti grazie alla cooperativa Arca di Noè. Ovviamente dobbiamo ringraziare anche chi ci ha aiutato a realizzare questo progetto, in particolare la Fondazione del Monte e l'ambasciata olandese. Vi chiederete perché? Perché l'ambasciata olandese ha con noi avviato un percorso e loro qui diciamo hanno dato non solo risorse economiche, ma verranno anche film prodotti da registi olandesi, e i registi olandesi saranno coinvolti in questo percorso con gli studenti di incontro, perché sarà l'occasione anche degli studenti di incontrarsi con i registi che hanno prodotto i film che noi proponiamo in questo percorso. Quindi è un bel lavoro d'equipe che ha prodotto un progetto molto significativo che noi speriamo possa poi diffondersi in altre scuole, non solo di Bologna e della regione, ma anche d'Italia, perché abbiamo prodotto per l'occasione un catalogo, un bel catalogo che da oggi pomeriggio sarà visibile sul sito di Biografilm o di SMK, che appunto può essere una scintilla che anche altre scuole possono accogliere. I ragazzi hanno accolto con grande entusiasmo, in questo momento è di là in corso la proiezione del film vincitore La nostra strada del regista Lidoni del Biografilm, il premio giuria del Biografilm 2020, e c'è presente il regista che al termine del film li incontrerà, e la sala, come hai visto, è piena, e insomma partiamo, con oggi partiamo. Io ti auguro un buon lavoro, felice di aver risentito la tua voce ai microfoni di Radio Città Fugico. Felice a me di averti rivisto e di aver incontrato Radio Fugico.